Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City. In questa terza puntata dello speciale Smart City dedicato all'analisi delle principali tecnologie impiantistiche per l'efficienza energetica nel mondo residenziale, vogliamo occuparci di cogenerazione. Con il termine cogenerazione si fa riferimento alla produzione contemporanea di energia elettrica e termica. È una strategia intelligente perché la produzione di energia elettrica a partire da un combustibile lascia sempre alle spalle una gran quantità di calore che in genere viene disperso. Quando questo calore invece viene recuperato e utilizzato, per esempio per riscaldare delle abitazioni attraverso una rete di teleriscaldamento, si parla di cogenerazione. La stessa strategia, ma più in piccolo, può essere adottata anche all'interno di un condominio o al limite anche di una singola abitazione. Con quali risultati, soprattutto economici, ne parliamo con Fabio Armanasco, ricercatore di SE, ricerca sistema energetico, esperto proprio di sistemi distribuiti, che ha messo appunto per noi un'analisi i cui risultati, ve lo ricordo, in forma estesa potrete poi trovare sul sito di Radio 24. Ma intanto buonasera Armanasco. Buonasera a tutti. Allora, senta, partiamo da quali sono i casi che avete preso in considerazione, che avete analizzato e perché. Abbiamo considerato un condominio costituito da 9 appartamenti in 2 fasce climatiche, zona E Milano e zona D Roma, e appartenenti a 2 diverse classi di efficienza energetica come tipologia di edificio, particolarmente classe F e classe C, con 2 distinti fabbisogni termici specifici in funzione appunto della classe di efficienza energetica di appartenenza. Certo, più efficiente l'abitazione, più è bassa la domanda di energia. Non affrontiamo il caso delle singole abitazioni, diciamolo subito perché? Sì, non l'affrontiamo perché le tecnologie ad oggi presenti sul mercato che riescono a soddisfare profili d'utenza tipici alla singola abitazione sono ancora delle tecnologie pilota e quindi non commerciali, e quindi abbiamo preferito focalizzare la nostra attenzione su quelle che sono delle tecnologie invece già presenti sul mercato. Ci sono tecnologie in vendita, ma diciamo sono molto costose perché siamo in una fase con tracelle combustibili, motori Stirling ancora abbastanza sperimentale. Ecco, allora veniamo ai numeri, quello che è venuto fuori dalla vostra analisi. Sì, allora quello che si evince dalla nostra analisi è che chiaramente un cogeneratore, come spesso accade per molte tecnologie analoghe, trova un riscontro in termini economici: maggiore è il numero di ore di funzionamento cui il cogeneratore è posto a servizio dell'utenza e soprattutto maggiore è la quota parte dell'energia elettrica cogenerata che l'utenza riesce ad utilizzare sotto forma di autoconsumo. Ad autoconsumare, perfetto. Quindi, considerando ad esempio il complesso condominiale di 9 appartamenti appartenente alla zona E di Milano in classe energetica C, e considerando un autoconsumo dell'energia elettrica prodotta pari al 50%, sì, vediamo che abbiamo un tempo di ritorno dell'investimento pari a circa 10 anni. Ecco che non è pochissimo, insomma, è un numero abbastanza significativo. Che cosa può spostare questa analisi, questo risultato? Ma molteplici sono i fattori. Tipicamente aumentare la percentuale dell'energia elettrica autoconsumata, ad esempio appunto passando dal 50 al 100%, vediamo che il tempo di ritorno dell'investimento dimezza negli anni, si attesta circa 5 anni, oppure aumentando il numero di ore di funzionamento dell'impianto stesso, quindi massimizzando l'esercizio del cogeneratore durante l'intero anno. Ecco, come si fa? Quali possono essere delle strategie per ottenere questi risultati in ambito residenziale? Ma tipicamente è l'individuazione dei profili termici ideali, quindi profili termici contraddistinti da carichi termici costanti durante l'intero anno e con un autoconsumo dell'energia elettrica cogenerata costante anch'esso durante l'intero anno. E questi sono dei profili termici appartenenti tipicamente al settore terziario, quindi piscine, ospedali, centri commerciali, palestre. Per quanto invece riguarda il settore residenziale, una strategia potrebbe essere un sottodimensionamento del sistema cogenerativo, andandolo magari a dimensionare non tanto per il soddisfacimento del fabbisogno dell'energia termica a fine di riscaldamento, ma bensì magari per servire l'acqua igienico-sanitaria. A questo punto un complesso condominiale ancora più grosso di quello da noi considerato, magari da 30, 40, 50 appartamenti, esatto, potrebbe far sì che il cogeneratore sia posto a servizio per un numero di ore molto elevato, all'incirca 8.000 ore anno, e che la quota parte di energia elettrica cogenerata sia completamente autoconsumata per il soddisfacimento dei carichi comuni del condominio stesso, certo. Quindi luci dei box, delle rampe delle scale, automatizzazione del cancello elettrico, ascensori. Ecco, perfetto. A questo punto si vede che a queste condizioni il tempo di rientro da quei 10 anni che parlavamo, che cosa diventa? Ma fondamentalmente potrebbe attestarsi anche sui 4-5 anni. Ecco, quindi completamente diverso. Insomma, una volta ancora viene fuori comunque la necessità di affidarsi a delle persone che siano capaci di fare i conti e di individuare delle soluzioni ad hoc, perché a differenza, diciamo, che in passato con una sola tecnologia, quella della caldaia, qui se si sbaglia si fanno grandi danni. Esatto. Grazie mille Fabio Armanasco. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.